dare ascolto alle emozioni. I tuoi segreti sussurro, ma c'è qualcosa che non conosco. Nascosta dietro i profumi di sorrisi nascosti, gli scontenti di baci e parole. Sentire fuori dal mondo i colori, avvicinare passo dopo passo un universo stanco di bagliori, di pioggia e terra bagnata. Io partita ritornai. Silenzio lunare, apri la bocca solo per respirare. Che bagliori, camminavo sulla riva, con tanti sassi che ad ogni ritorno se ne andavano via. Sono tornata sui miei passi ed ora so che la mia mente è fatta di colori, non comprende né sentenza metà.